giorno lontano, ma quando arriverà, triste è il dolore e ti prenderà la mano e ti consegnerà. Lunghi giorni passati a capire una vita va, uno sguardo non può mai mentire, si ricorderà. Fra poco me ne andrò, da lassù vedrò che sei triste senza me, ma vivrò con te. Birba in dono mi ha dato la sorte 5 anni fa. Ora crudele è arrivata la morte, la sua vita va. L'amore un'amica lo lascia capire da quello che ti dà. Uno sguardo riesce a intuire che ti lascerà. Io sul ponte andrò e ti aspetterò. Non mi hai persa, sai perché? Sarò parte di te. Volano i giorni, così le stagioni, e seguiremo noi. Alla fine, solo emozioni, se questo è ciò che vuoi. Di uscire col cuore a sentire cosa ti darà. L'amore è la forza per farti capire ciò che servirà. Apri il cuore, vai, su ti porterà. Alla fine poi saprai chi ti resterà, chi ti aspetterà.